cosa sarà mai della mia vita? Non ho nessuno qui vicino a me. Tremavo, pensavo, ma finalmente ho visto te. Oggi è nato l'amore, e sai il perché. Ha tremato il mio cuore vedendo te. L'uomo che voglio baciare sei tu. No, non ti posso lasciare mai più. Nel tuo dolce sorriso mi perderò, carezzando il tuo viso e sognerò il paradiso, perché ho una fiamma nel cuore, un terribile ardore. Oggi è nato l'amore. Oggi è nato l'amore.